Radio 24. Libera la voglia di fare. Mix 24 di Giovanni Minoli. Prestito, condivisione attraverso le nuove tecnologie. Non sto parlando di sharing economy, l'economia della condivisione. Airbnb si occupa di posizionare sul mercato appartamenti sfitti utilizzabili per brevi soggiorni turistici. Uber chiude i battenti in Ungheria. In giugno è stata approvata una legge che consente di fermare un fornitore di servizi di taxi che operi senza un centro di smistamento. Oggi un'ora! Si fanno tante consegne, si può arrivare ad avere più di 5 euro all'ora, solo che se non si fanno consegne, come capita molto spesso, è il tempo regalato all'azienda. Alle accuse di abusivismo, il patron di Airbnb risponde che la sua idea permette a interi quartieri disabitati di rivivere. L'economia della condivisione sta cambiando il modo di condividere e riusare beni e servizi. In tempi di crisi come questo è qualcosa che sta diventando per molti un affare molto redditizio. Buongiorno, benvenuti a Mix24 e buongiorno a Dario Di Vico, inviato del Corriere della Sera. Ecco, qualche giorno fa è scritto sul Corriere della Sera un lunghissimo articolo sul fenomeno della sharing economy. Intanto cominciamo a spiegare che cosa è, cosa si intende esattamente per sharing economy. E sharing vuol dire dividere, in sostanza io ho un bene che utilizzo in parte e posso mettere a frutto questo bene affittandolo, noleggiandolo ad altri che non conosco. E quindi per molti può voler dire condividere l'abitazione, l'auto, altri mezzi, insomma diventano componenti aggiuntive del reddito, diciamo così. Certo, diciamo l'abitazione si confà alla perfezione. Certo. L'auto è più complicato perché in genere i servizi di car sharing vengono gestiti da soggetti di business. Esiste poi un altro tipo di condivisione, che per esempio la condivisione dei passaggi in auto, che diciamo vede come leader la piattaforma francese BlaBlaCar. Poi c'è addirittura la condivisione delle cene, cioè di tutto. Ecco, ma è un modo di reagire alla crisi, al crollo del reddito disponibile prevalentemente della classe media, si può dire? Beh, diciamo, quello è l'effetto. Secondo me alla base c'è, come dire, un'idea del limite della crescita, nel senso che c'è una riflessione di lungo periodo dietro, secondo me, quella appunto che non si possono, la crescita non è illimitata e comunque ci sono alcuni fattori che vanno messi, vanno ottimizzati perché già esistono in qualche maniera, non ci possiamo permettere di sottoutilizzare delle cose che già esistono. Esatto, non si può sprecare, cioè è un po' anche antispreco in qualche modo. Certo, è un utilizzo. In più ha una ricaduta, quella è la ricaduta. Certo, economica, interessante. Sì, perché diventano soggetti economici delle persone che non lo erano. Certo. E quindi è successo, facciamo un esempio concreto, banale, sì. ma che ne so, Salone del Mobile a Milano. Arriva una quantità di persone notevolissima da tutti i posti del mondo, gli alberghi fanno il pieno e addirittura in quel periodo raddoppiano le tariffe, e però esiste la possibilità che una serie di persone, magari anche per quella settimana, non solo affittino la seconda casa, ma affittino la loro casa magari andando da un amico o andando in Liguria qualche giorno. Certo. E quindi è chiaro che si mettono sul mercato dei beni che prima non lo erano. Allora invece di costruire delle cose in più che poi non hanno redditività rischiano di essere delle piccole cattedrali nel deserto, c'è un utilizzo, diciamo, massimo dei beni esistenti, diciamo così, un utilizzo massimo dei beni esistenti. Ecco, però ci sono anche problemi, questo è l'aspetto positivo, problemi seri di concorrenza, cioè se io affitto l'auto non pago le tasse su quello, su quella quota di reddito, naturalmente sto levando lavoro a tassisti e noleggiatori. Sono due elementi, c'è un problema anche di questo genere, no? Certo, c'è un problema di trasparenza e quindi di posizione equa nei confronti del fisco, questa è la condizione sine qua non. No, ne parlo perché a New York il problema è diventato così grande da richiedere un intervento legislativo. Il governatore Cuomo contro Airbnb nel settore alberghiero ha preso delle iniziative, perché l'eccesso naturalmente conduce alla creazione di una distruzione di attività anche. Cioè, da una parte. Certo, però Giovanni, ti faccio un esempio proprio personale. Sì. Ho fatto un giro con mio figlio in Danimarca e in Svezia quest'estate, e mio figlio è andato a vedere i prezzi di alberghi, erano diciamo proibitivi per noi. Sì. Poi è andato a vedere i prezzi di Airbnb ed erano abbordabili. Allora aspetta, a quei prezzi lì degli alberghi noi non saremmo andati in Svezia e in Danimarca. Questo, avremmo cambiato destinazione. Certo, è un marketing diverso, un marketing più completo. Più completo, e nello stesso tempo può essere un'offerta complementare, perché ripeto, a quei prezzi io non sarei andato a Stoccolma. Per una scelta mia, opinabile, certo, come vuoi, però per una scelta di budget non ci sarei andato. Ci sono andato perché ho trovato un'offerta più confacente al mio budget. Quindi tu dici, alla fine gli aspetti positivi sono molto maggiori, anche perché molto maggiori, gli alberghi potevano diminuire i prezzi, diciamo. Ma evidentemente per una legge del mercato gli alberghi di Stoccolma non avevano bisogno di abbassare i prezzi, perché evidentemente avevano mercato. Ma io non sarei andato a Stoccolma, quindi adesso assumendo il principio del bene di Stoccolma. Stoccolma, come esempio, certo. Stoccolma ha fatto più uno. Più uno, certo. Allora, Giovanni, è evidente che poi ci possono essere fasce che sono in concorrenza, che probabilmente, come dire, la fascia più bassa degli alberghi familiari può entrare in concorrenza, però io regoliamo tutto, sì. Non sto dicendo, però non strozziamo. No, una possibilità in più, una tecnologia in qualche modo che rende un pezzo di economia che prima non esisteva, la rende visibile e la rende attiva. Ma certo, io sono stato a Copenaghen in un albergo, in un appartamento Airbnb, erano dei ragazzi, degli studenti stranieri che erano a Copenaghen, hanno integrato il loro reddito, no? Certo, non c'è dubbio. Ecco, Dario, però ho fatto due cose in una, diciamo, sì. No? Ecco, però in Italia per esempio è scoppiato il caso di Foodora, un'azienda che offre la consegna di cibo a domicilio, e i lavoratori hanno protestato. Perché? Possiamo spiegare ai nostri ascoltatori cosa si tratta? No, quella non è una sharing economy, però lì non si condivide niente, lì c'è un soggetto. È la gig economy. Esatto, è una cosa diversa, cioè lì c'è un soggetto, un padrone, mettiamola così, con un termine classico. C'è un padrone e ci sono dei lavoratori che sono metà autonomi, metà dipendenti. Sì. È come il Pony Express, non abbiamo mai parlato, il Pony Express esiste dall'83 in Italia, non abbiamo mai parlato di sharing economy per il Pony Express. No, lì si tratta di tutta un'altra cosa, di regolare un lavoro centauro che è metà autonomo e metà dipendente, e che nel caso Foodora la prestazione era spinta all'estremo. Ecco, ma facciamo un altro esempio allora, scusa, ma una persona che affitta un passaggio su BlaBlaCar, ecco, l'auto, speriamo di no, ma esce fuori strada, incidenti, feriti, chi paga? L'assicurazione. L'assicurazione dell'auto? Come se il passaggio glielo dessimo io o te. Questo dal punto di vista delle norme, ovviamente. Sì. C'è una differenza però. Mentre Airbnb punta a professionalizzare le persone che affittano casa, BlaBlaCar non vuole che si creino il business dei passaggi. È una cosa un po' diversa. Cioè? BlaBlaCar vuole che rimanga a livello amatoriale, cioè che tu dai un passaggio, certo, per condividere le spese di quel viaggio, non per fare attività di business. Quindi diciamo che Per chiacchierare, ho capito, ma diciamo per chiudere, in fondo dietro questa sharing economy c'è una presa di coscienza, come dicevi all'inizio, dei limiti dello sviluppo e quindi della necessità in qualche modo di ripensare anche i modelli di vita. Ma certo, Giovanni, noi ovviamente, per carità, niente decrescita o stupidaggini di questo tipo, stiamo dicendo che nell'ambito di economie avanzate noi possiamo, metti il nostro paese, ma possiamo arrivare, a fortuna ci dovrebbe assistere, al 2%, sì. Ma comunque anche ammesso che noi avessimo un 2%, però c'è la possibilità di sfruttare delle occasioni che già esistono e che quindi non richiedono ulteriori... Naturalmente, investimenti, sono scelte antispreco, quasi si può dire in certo senso. Scelte antispreco che possono generare su soggetti... che hanno redditi aggiuntivi. Certo, devi avere un bene. Per forza, punto di partenza è necessario. Punto di partenza deve avere un bene. Classico, ad esempio, che cosa succede? Che ci sono dei genitori che hanno una seconda casa e fanno gestire gli affitti della seconda casa dei figli mentre cercano lavoro. Certo. Bene, grazie. Per carità, non è la soluzione dei nostri mali. No, però è una cosa che nasce e che è interessante. Grazie Dario Di Vico, il Corriere della Sera, lo ricordo, 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, insomma, mi sembra che è interessante comunque questa cosa. Sì, io sono un po' combattuto, nel senso che mi sono appassionato di processi di innovazione, ovviamente, di tutto ciò che è tecnologia e fa fare dei salti alle organizzazioni imprenditoriali. Ma questa è più cultura che tecnologia, no? Beh, ancora più interessante allora, no? Però c'è, secondo me, questo lato che tu hai sollevato, che è molto importante, cioè la concorrenza e la simmetria fiscale che si crea tra vari soggetti che fanno in fondo la stessa cosa. Sì. Cioè, se io fossi un albergatore che è un privato, affitti casa e non paghi le tasse... Vabbè, certo, un albergatore con l'albergo vuoto, naturalmente. Perché l'albergatore con l'albergo pieno se ne frega. Certo. Beh, però anche la questione dei noleggi, insomma, c'è materia sul quale però c'è anche discutere. Un mondo che evolve, che offre delle soluzioni in momenti difficili. Pietrangelo, tu che dici? Integra un reddito, punto. Fisica. Sì, è una storia antica però, nel senso che il lavoro nero ha accompagnato da sempre l'economia sommersa. Nell'Italia, per esempio, del posto fisso, nel pubblico impiego, di solito ferie e tempo libero venivano utilizzate per i lavoretti fuori dal proprio ruolo. Ora, con la morte del pubblico impiego è sparito anche lo spazio nascosto, e c'è da dire che se c'è innovazione, di cui ne parlava prima Maria, e l'innovazione comunque c'è, però è costretta nella trappola del precariato. Cioè, tu dici che è un giacimento di lavoro nero, insomma. Alla fine è solo questo. Solo questo. Alla fine è solo questo. Già, per esempio, diciamo tutta: se già per una settimana una persona non è in grado di lavorare per un febbrone, perde reddito. Stiamo parlando di reddito in. Drammatica, ma che integra se non c'è il lavoro? No, ma parlando della sharing economy, se tu affitti, puoi affittare un pezzo, una camera, una cosa, ma l'esempio aiuta. Che faceva Di Vico, lo conosco bene, quello di affidare ai figli la gestione di seconde case, no? Si è sempre fatto, però ormai è sempre uno spicciolo inutile ormai nell'economia generale. Inutile non lo so, insomma, perché... C'è una grande azienda italiana che è l'ENI, che ha lanciato qualche anno fa un progetto di car sharing chiamato Enjoy. È in linea con noi il manager dell'ENI, che è responsabile di questo progetto. Giuseppe Macchia, ci racconta com'è nata l'idea? L'idea è nata, diciamo, da un'esigenza soprattutto di diversificazione del business nel downstream da parte di Eni. È stato lanciato questo progetto all'inizio del 2013, a marzo per la precisione. È stato messo su un team di persone Eni prese da vari dipartimenti, e in 8 mesi e mezzo avete costruito questo. E come sta andando? Sta andando molto bene, siamo molto soddisfatti, abbiamo raggiunto i 530.000 iscritti, che era un numero decisamente... Era l'obiettivo? No, siamo andati ben oltre l'obiettivo. Gli iscritti crescono ogni giorno di 500-600 unità. Ci stiamo ormai portando dappertutto verso... distribuiti in che modo sul territorio? Allora, noi siamo presenti in 5 città, abbiamo iniziato a Milano, poi Roma, Firenze, Torino e Catania. E qual è la città che reagisce meglio? Milano è decisamente la città che reagisce meglio. Senta, io ho dato un'occhiata alle tariffe, effettivamente è conveniente, benzina, assicurazione, manutenzione, parcheggio nelle strisce blu sono compresi nella tariffa, ma voi quanto guadagnate? Noi in questo momento ci stiamo portando verso un livello di, diciamo, di pareggio, ma bisogna considerare che sono 2 anni e mezzo che è nata Enjoy, e quindi, come tutte le start-up, abbiamo la necessità appunto di una crescita, di un ramp up. Esatto. Senta, voi siete quelli della 500 rossa, Fiat 500 rossa, per capirci, ma adesso avete anche cominciato con il noleggio degli scooter della Piaggio. Com'è stata l'accoglienza degli utenti sugli scooter? Molto buona, siamo contenti. Con Piaggio abbiamo stretto una partnership importante, i numeri ci stanno supportando e contiamo di rendere il servizio sempre più efficiente e semplice, soprattutto nei prossimi mesi. Ma insomma, per il momento siamo soddisfatti. Quanti noleggi ci sono al giorno? Noi oscilliamo tra i 13 e i 14 mila noleggi al giorno, ovviamente distribuiti in maniera leggermente diversa durante la settimana, i picchi sono soprattutto il venerdì, esattamente nel weekend. Senta, anche quando ci sono gli scioperi. Certo, ma il vostro successo vuol dire che il possesso dell'automobile sarà sempre meno importante per gli italiani? Certamente Enjoy e il car sharing a flusso libero ha modificato. Insomma, diciamo, comincia a modificare la mentalità nell'uso dell'automobile. Direi che ci stiamo dando il nostro apporto. Meno mito. Senta, ma avete un programma di espansione nel servizio? Ma noi guardiamo sempre sicuramente in Italia, alle città dove è possibile implementare il servizio, e diciamo nei prossimi mesi potremo fare anche un pensiero altrove. Per finire, automobili, motorini, biciclette, niente? No, biciclette per il momento non sono nel nostro perimetro. 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, l'SMS ci scrive Carlo, su BlaBlaCar c'è una specifica assicurazione, ne abbiamo parlato prima del problema eventuale, che tutela chi viaggia ed è un'assicurazione distinta da quello dell'auto. Grazie della precisazione, Carlo. Intanto ricordo ai nostri ascoltatori che se scrivono degli SMS è bene che si firmano, perché se no ovviamente non li leggiamo. Mario, un caso di successo italiano questo qui dell'Eni? Sì, è molto incoraggiante, ovviamente lo fa una grande azienda che è Eni, e questo diciamo è importante. Sottolinea però il fatto che la sfida con i titani della rete, perché di solito questo lavoro lo fanno i titani appunto di internet, è possibile anche per aziende che non sono di quel settore e anche per piccole aziende. L'importante secondo me è partire dalla tradizione italiana. Certo. L'Italia ha una tradizione importante di motori nel settore petrolifero pure, quindi diciamo si sono sposate queste due cose. Però se tu guardi alla terra, vedrai che ci sono un sacco di cose da fare usando il digitale. Infatti, no? È vero, tu Pietrangelo intanto usi la metropolitana, quindi te tutte queste cose di car sharing... No, che c'entra, però per rivendicare nella metropolitana anche un principio che secondo me è fondamentale, che è quello di abituare la gente allo spazio pubblico. Faccio un esempio concreto: c'è una profonda differenza tra l'uso della metropolitana a Milano e l'uso della metropolitana a Roma. La differenza sta nel fatto che a Milano incontri le facce della città. A Roma, al contrario, la maggior parte degli utenti sono o turisti o immigrati, cioè i romani non la utilizzano tanto. Ma proprio... perché c'è ancora poca metropolitana, forse? Non è entrata nella cultura. In realtà c'è questo retaggio, mito dell'automobile. C'è il mito dell'automobile, il mito dello scooter, il mito della indipendenza, del controllo, del dominio del territorio. Faccio come voglio da solo e poi con le conseguenze di un traffico abbastanza spaventoso. Mario, tu hai parlato della terra, cioè. Ecco, infatti noi abbiamo il fondatore di Cortiglia, che è Marco Porcaro. Cortiglia è un'azienda che ha aggregato gli agricoltori di molte zone italiane che sulla piattaforma digitale offrono i loro prodotti. Ecco, Marco Porcaro, voi siete partiti proprio dalla terra italiana e dai suoi frutti. E poi cosa avete fatto? E poi abbiamo aggiunto la tecnologia, rendendo semplice per chiunque di noi fare la spesa direttamente in campagna. Quindi oggi con Cortiglia è possibile, con un semplice click dal proprio divano, acquistare frutta, verdura, carne e formaggio dagli agricoltori locali del proprio territorio. E viene consegnata a casa? Assolutamente sì, abbiamo una flotta di driver che gestiscono questo tipo di consegna. E quanti agricoltori avete aggregato finora? Oggi su Cortiglia, nelle aree che copriamo, che sono Milano, Bologna e Torino, ci sono più di 100 aziende agricole, produttori, trasformatori che vendono attraverso la piattaforma. Ma c'è stata resistenza all'inizio? Molta. Ma da parte di chi? In primis dagli agricoltori, paradossalmente, che erano abbastanza diffidenti alla possibilità di poter vendere frutta e verdura a distanza. E voi anche i consumatori, ma si stanno abituando e stiamo crescendo infatti tantissimo. Avete in progetto di espandervi molto? Centro-Nord Italia in questa prima fase. Ci rivolgiamo su aree densamente abitate inizialmente per creare efficienza nella logistica e nel trasporto a domicilio e dove c'è una domanda, diciamo, più sviluppata per questo tipo di servizi, dove ci sono utenti che sono disponibili a acquistare tramite un telefonino, certo, carne, formaggio, fare la spesa online. Ma se io ordino adesso, tra quanto arriva a casa mia quello che ho comprato? A Milano 24 ore, se entro fino alle 18 di sera, il giorno dopo si ritrova la spesa a casa, con un servizio molto efficace, perché molto può efficace, scegliere fascia, certo, orari. Ma avete in mente di sbarcare anche all'estero o per adesso consolidate l'Italia? Consolidiamo l'Italia, ma l'obiettivo è anche di espandersi all'estero, perché pensiamo che questo tipo di caratteristica, tecnologia, legata a passione, tradizionalità, artigianalità e gusto italiano, possa avere successo anche all'estero. Ma quanto è stato l'investimento iniziale di questa startup? Beh, fino adesso abbiamo raccolto qualche milione di euro da fondi di investimento, da VC che hanno creduto nella startup, e comunque serviranno altri investimenti, ne faremo ulteriori, raccoglieremo ulteriori capitali, perché l'espansione di questo tipo di servizi richiede ingenti capitali, sia per finanziare lo sviluppo della piattaforma tecnologica sia della logistica. Ma è fatturato a che punto è arrivato? Adesso siamo ancora in fase di crescita, diciamo che l'anno scorso abbiamo chiuso a 3 milioni, quest'anno stiamo praticamente crescendo in maniera significativa, doppia cifra mese su mese, da quando abbiamo aperto questo servizio con 24 ore di consegna dall'ordine a consegna, cresciamo a doppia cifra settimana su settimana. Accidenti. Senta, voi siete in Italia, pagate le tasse in Italia, cosa ne pensa delle aziende straniere con sede in Lussemburgo, in Irlanda, nei paradisi fiscali, la concorrenza sleale? Se giocassimo tutti la stessa partita allo stesso livello sarebbe meglio, però capisco le dinamiche globali, internazionali di questa gestione fiscale. Noi assolutamente non solo paghiamo tutte le tasse in Italia, ma tutti i pagamenti su Cortiglia vengono gestiti con carta di credito, diciamo che tutto prepagato, quindi anche un modello assolutamente tracciato da questo punto di vista. Ecco, ma anche sul mercato italiano sbarcherà con la sua forza Amazon Fresh, che distribuirà prodotti alimentari freschi. È un concorrente che vi fa paura? No, per noi è una grandissima opportunità, perché aprirà il mercato, educherà i clienti a fare la spesa online. Noi puntiamo sulla nostra qualità, il servizio e la qualità dei nostri agricoltori per riuscire a entrare sul mercato in maniera significativa, anche perché abbiamo un modello di vendita un po' particolare, che è quello di abbonarsi a queste cassette di frutta, verdura, carne e formaggio. Ma come funziona il vostro controllo sulla qualità del cibo? Funziona più o meno alla grande distribuzione, con una qualità sul prodotto e tutta la filiera. Avete delle persone di fiducia che scelgono i prodotti? Quindi giovani ragazzi di gastronomi che vanno sul territorio, selezionano i produttori, si confrontano con i produttori sulla stagionalità, sulle tipologie di produzione, sulla tipologia di prodotti che vengono venduti. E quanta gente lavora in Cortiglia oggi? Siamo 25 persone dipendenti diretti, più abbiamo un indotto che saranno 100-150 persone tra trasportatori, magazzinieri. Per noi è molto importante che l'agricoltore, quando seleziona il prodotto da inviare a Cortiglia, si renda conto che è delegato sia da noi ma soprattutto dal cliente nella selezione del prodotto stesso, quindi c'è un forte coinvolgimento dell'agricoltore in tutto il processo di vendita e acquisto. Senta, un'ultima cosa, ma fate assunzioni in prospettiva? Il 99,9% delle persone in Cortiglia sono a tempo indeterminato e sono più assunti, quindi si cresce. cresciamo e avremo intenzione di crescere moltissimo investendo in professionalità legate al mondo della tecnologia, quindi ingegneri informatici, sviluppatori software, ma anche gastronomi e pure agronomi che si occupano del prodotto. Mario, tu che sei il nostro fanatico di tecnologia, fai la spesa così, con Cortiglia? No, perché Cortiglia purtroppo a Roma non c'è, però ci sono altri servizi che fanno questo tipo di operazioni. Tu la faresti? Non come Cortiglia, devo dire la verità. Però una bella cosa, mi sembra molto interessante, no? No, riflettevo sull'inveramento dell'online. Dov'è? È lì. È nella... No, faccio una proposta, no? Allora, l'inveramento dell'online dov'è? È nella macchinetta del caffè che uno c'ha a casa, che è quanto di più depressivo si possa immaginare. Cioè l'idea di sottrarsi alla socialità mettendosi il bar in casa, uno diventa pazzo. Ma no, ma è... oltretutto fa schifo il caffè della quella della Cialdini. Adesso fa schifo. Ci sono i fanatici. Ma no, voglio dire, rivendico il principio della socialità, di incontrare, vedere facce, salutare. È un tipo da bar, vabbè, è giusto. Vita di piazza, socialità. Ok, ci vuole una repubblica sociale. Pensa che io la voglio digitalizzare la macchina del caffè, immagina. Pensa un po' come si digitalizzare. Mi sembra che abbiamo scelto un gruppo giusto. Sto passo a digitalizzare il caffè finisce che va a digitalizzare qualcos'altro. Mario, poi stai attento. No, quello no. Tanto ormai Gianpaolo da Firenze, buongiorno. Buongiorno Minoli, buongiorno. Lei aveva una qualcosa da dire su BlaBlaCar? No, non so, sulla sharing economy. No, su Airbnb. Telefono proprio per queste storture che si sentono su questi appartamenti. Perché lei cosa fa intanto? Io sono un albergatore, immagino. Certo, e sono anche presidente del consorzio Firenze Albergo. Sono i suoi nemici giurati, immagino. No, ma vede, non c'è più nemmeno il nemico giurato. Noi abbiamo coniato un climb che ultimamente proponiamo, che è hotels do it better, nel senso che quando una persona viene in albergo ha l'opportunità di stare innanzitutto di arrivare quando vuole senza extra fee, ma soprattutto ha come si dice, noi abbiamo una qualificazione del personale, gli date dei servizi migliori, dice, ma loro uno che va da Airbnb non si aspetta servizi, si aspetta di andare a dormire, ma anche solo la sicurezza, per dire, no? E poi c'è anche Airbnb, va bene, quando è nato proprio a Firenze, ma è nato per la vecchiettina che aveva l'appartamento grande e adesso invece doveva essere massimo 3 camere, adesso si trovano appartamenti da 30-35 camere in affitto. Vabbè, degli alberghi non classificati come tali, ho capito, va bene, è un problema di regole anche lì. Grazie, auguri del suo lavoro. 800 24 00 24, e il numero verde. Angelo da Verona, ancora Angelo? Buongiorno, mi dica. Sì. Ecco, senta, no, allora io ho ascoltato la trasmissione sulla questione della sharing economy. Sì. Senza allargare troppo l'ambito della discussione. Sì, non allarghiamolo troppo. Sulla questione fiscale di internet, però sharing economy non esiste senza internet. Certo, allora, non c'è dubbio. È giusto che ad esempio molti di queste iniziative abbiano un vantaggio fiscale, ma il problema del vantaggio fiscale è un problema drammatico, perché è il problema delle over the top in generale, cioè è il problema di regolare fiscalmente tutto quello che passa da internet. Questo ha ragione, non c'è dubbio. Io mi riallaccio sicuramente al discorso che ha fatto il signore prima, dice io a Stoccolma non ci sarei andato, ho capito, ma cosa vai a pagare? Una cosa che forse fiscalmente non è in linea, quindi è facile dire bed and breakfast, ma anche affittare una camera, un posto letto, ma non è giusto nei confronti dei semmai di altri. Vabbè, è il problema fiscale, naturalmente, però l'economia va più in fretta delle regole e quindi si arriverà a regolamentarlo, ma intanto questo è il mondo che va avanti. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS pubblici. Mix 24. Allora Pietrangelo, cosa ascoltiamo oggi? Eccola. If I was young, I'd flee this town, I'd bury my dreams underground. as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns as oggi tutto un inizio, tutto un cominciare in metropolitana, era un principio di caccia per avviare la stagione, una stagione poi rotta nel silenzio di una notte tutta bagnata, tutta di pioggia, e l'attendarsi è un accampamento di sogni nel silenzio dei pendolari. Insomma, ha chiamato Diana Cacciatrice, era nel vagone e ha voluto questo brano per Enea con una dedica, Mario. Ascolta. Facciamo che si comincia per davvero, ma da Alba Longa? Ah, Alba Longa. Qui ce ne ho due per te, Pietrangelo. Maurizio Ferrero da Torino, che dice: sì, vabbè, ma il caffè al bar costa 4 volte. Quindi chiacchiererai anche, però lo paghi molto di più di quello che ti fai a casa da solo. E per si prendesse la ciofeca con la cialda. Ah, vabbè, ok. Però se vai al bar, poi per davvero, lì vedi che tutti guardano il telefonino, non è detto che chiacchierino fra di loro. Ah, certo. E la grande solitudine di tutti insieme. Vai con e al telefonino mani. Mi segnalano una bellissima scena di Nanni Loi al bar. Vedi? Visto? Non c'erano ancora i telefonini quando Nanni Loi faceva il film. Chi te scommetto che te l'ha segnalato una signora. No, mio cugino Fausto Ventura. Tuo cugino, vabbè. Vai, cugino, Mario, cugino. Con la tua bolla. Anzi, questo è un pezzo meraviglioso, mamma mia, Simone. Allora, Giovanni, concentrati. Mi concentro. Tieni l'aspirina sul tavolo, perché quello che sto per fare. Fatto. Anche tu, Pietrangelo, aspirina a tutto spiano. Allora, vi racconto una storia. È la storia di un gasdotto tra Italia e Grecia e degli ulivi. È, secondo me, la metafora perfetta delle grandi opere in Italia. Allora, bisogna dunque costruire un microtunnel per il TAP. Il TAP è il gasdotto tra Italia e Grecia. Stop, fermi tutti, ci sono degli ulivi e non si fa assolutamente niente prima che intervengano tutte le cosiddette autorità preposte. Allora si inventa che c'hanno la xylella. Aspetta. E allora io vi leggo, l'ho tratta dalla Gazzetta del Mezzogiorno, diciamo il filo conduttore. Scopriamo insieme i protagonisti dell'opera. Compare il Dipartimento Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno per la distanza di rispetto degli alberi di alto fusto dall'asse della condotta. Okay. Non può mancare il Ministero dell'Agricoltura per l'intreccio con le norme per il contenimento della xylella. E poi si capisce, non si può cominciare nessun lavoro senza l'ok del Ministero dell'Ambiente sulla consistenza della documentazione fornita da TAP. Ma alla fine, proprio il Ministero dell'Ambiente scrive una lettera che dà il via libera al TAP. Perché sono cadute le motivazioni ostative a che si proceda in aderenza a quanto previsto dal piano esaminato della regione e sottoposto e valutato dagli organismi tecnici regionali a ciò deputati. No, non è così. Perché? No, non si può fare. Perché al Ministero comunque attendono una risposta del gladiatore delle Puglie Michele Emiliano. E dunque potrebbero sorgere, sentite che bel linguaggio, diverse valutazioni tecniche oggettivamente riscontrabili da parte della Regione Puglia. Ah, ne fai una questione letteraria. In qualità di ente vigilante da comunicare comunque entro 10 giorni continuativi. Allora, forse il gasdotto un giorno si farà. Quello che appare impossibile è insegnare l'italiano agli italiani. Mi sembra proprio così. Senti, Pietrangelo, Salamino, però prima di andare con Salamino, ci continuano a scrivere. Mm-hmm. Gli spieghi perché Salamino? È un omaggio a Ettore Petrolini, grande, illustre comico, un capolavoro nella commedia italiana. Ho comprato i salamini e me ne vanto. Se qualcuno ci patisce, io ne canto. Ecco, perfetto, adesso lo sapete. In principio furono le scarpe. Torna il 4 novembre. No, però sì, è bellissima la leggenda del Piave, ma non purtroppo nel senso dell'anniversario della vittoria della Prima Guerra Mondiale, ma torna il 4 novembre la Leopolda, fonte battesimale della nuova Italia fondata da Michele Renzi. Mario, tu ci vai alla Leopolda? Come Michele Renzi? Non si chiama Michele? Ma non so, non mi ricordo. Comunque no, Mario, no. Tu ci vai a San Leopolda? No, perché? Perché nella Leopolda, caro Mario? Serve per entrare in società. Certo, perché allora c'è, non ci va. Certo, perché c'è il meglio del meglio dell'Italia, beh, allora, che si dà allora appuntamento. Allora non posso esserci. Non, posso, non te lo puoi permettere. No, si dà come non ti hanno invitato, certo. Non farla lunga, non ci posso non andare. Invitano. Non ci mancherebbe. Comunque il meglio dell'Italia si dà appuntamento a Firenze, là. Nella stazione della Leopolda. E beati loro. Comprata alle ferrovie dello Stato per farne giusto. Il San Sepolcro. Olè. Il San Sepolcro di Mario Renzi. Ma e però è Mario Renzi? O si chiama Mario? Ma no. Ah, no, pensavo fosse lo stesso onomastico. No. Scusa, no. E però, caro Giovanni, sarà diversa da ciò che fu in principio. Diversissima. Diversissima perché non ci saranno le scarpe. Oh, non è che non si dovrà andare scalzi, ma no, non ci saranno quelle che furono, ve le ricordate, la prima Leopolda? Quelle zebrate, leopardate, ghepardate, maculate, pittate, taccate, taccute, le scarpe della soave, severa, no. Silente e sempre più schiva Maria Elena Boschi, il ministro più bello del mondo dopo Mara Carfagna, va da sé, che però è tenuta ai margini da quella che Wanda Marra e Davide Vecchi oggi sul Fatto Quotidiano definiscono la Medjugorje del renzismo, ovvero la stagione meravigliosa voluta da Mimmo Renzi. Oh, furono un'icona quelle scarpe. In questo momento di radiovisione, cari ascoltatori, potete ben immaginarle, perché c'erano lei e lui. Lui, Massimo Renzi, in camicia bianca e slide. Lei, Maria Elena, con quei tacchi che dicevano tutto e senza slide parlavano. Oh, insomma, i testimoni, caro Giovanni, scarseggiano in questa edizione del 4 novembre. Ma non è vero, ma non sì, si sa. Perché, guarda, ma adesso perché lo scrive il tuo giornale, allora è vero. Certo, quasi vero. Niente. Scarseggia, ti dirò, per esempio, Mauro Moiro Orfeo darà la massima copertura del TG1. Vabbè, tutta la RAI sarà mobilitata, tutta, pure TG vabbè, Salute, dai, il Televideo, Viaggiare Informati, il segnale orario, ma non ci sarà, e non si sa come, chi? Caro Giovanni, a proposito di scarpe, sarà? Non ci sarà, e non perché non potrà fare il bacio della pantofola, non ci sarà Antonio Campo Dall'Orto. Vabbè, normale, deve lavorare, dai. Ma sì, ma come? Sta rimettendo in piedi sì, tutti i palinsesti. Lui andava appaiato con le scarpe, se vabbè, ti ricordi. Ma no? non faceva il direttore generale della RAI all'epoca. Comunque è finita che Maurizio Renzi non ha invitato il direttore generale della RAI, e non si sa perché, non si sa perché. Mentre invece, caro Giovanni, si sa perché Maria Elena è tenuta ai margini. E vuoi sapere il perché? Perché? Il perché ce lo dicono in musica. Ma non è suo papà? No. Sì, no. Urlava ai correntisti. No, ormai la canta pure Massimo Renzi questa. Sì. Vabbè, bolla Mario. Vai. L'ultima bolla. Al vola. E vola, l'ape maia, vola. Vabbè, allora. Mazza belli questo. Un po' tamarra, eh. Vabbè. Allora, ci sono un po' di numeri in giro. Consiglio sempre di guardare le cose delle I numeri. I numeri. E esce il dato del PIL del Regno Unito tra un po', quindi è importante. E si capisce questo Brexit che ha fatto. Vediamo se ci sono i primi effetti o no. Forse non troppo. Stime 0.4, vediamo se le rispettano. Nel mondo high tech ci sono parecchie cose in movimento. Escono i dati di Alphabet, che sapete tutti, è la parent company di Google. Non lo sa quasi nessuno. Ma sì, dai. Apple presenta due nuovi MacBook, fate attenzione, anche lì innovazioni di prodotto, come dicevamo ieri, vediamo come verranno accolti dal mercato. Vediamo. Tesla è interessante perché 3 anni dopo la startup del 2013 presenta per la prima volta un utile, e quindi nell'ultimo quindi trimestre l'auto elettrica fa strada. Quindi Elon Musk, insomma, è un imprenditore in gamba. E Quotazione di Snapchat, che è un'altra cosa interessantissima, perché è un social molto usato dai ragazzi, ovviamente, e potrebbe raggiungere perfino la valutazione di 40 miliardi di dollari. Mamma non mia. So sulla base di quali moltiplicatori. Quelli però... sono i moltiplicatori misteriosi. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666. Gli sms, penso che assisteremo a delle esplosioni di bolle pazzesche. Mix 24. Diego Armando Maradona está entre dos, vean cómo le marcan y la habilidad del argentino, empieza a cambiar la velocidad, va entre dos, abre para la pared, allá con Valdano Maradona. Diego Armando Maradona, el pibe de oro, que el 30 ottobre compie 56 anni. Originario di Villa Fiorito, Buenos Aires, a soli 15 anni esordisce nella prima squadra dell'Argentinos Juniors. A 16 anni il debutto in nazionale, a 19 ha già segnato 100 gol, a 20 passa nel Boca Juniors, è già un idolo. Poi la volta del Barcellona, che spende 7 milioni di dollari per averlo. Nell'83 si rompe la caviglia sinistra ed è la svolta per il Napoli, che lo acquista dai catalani. Arrivano due anni d'oro, nell'86 il mondiale vinto con l'Argentina e nell'87, il 10 maggio, è scudetto, il primo per la città di Napoli. Poi le relazioni clandestine e il figlio illegittimo, la cocaina e la squalifica, le foto coi boss e i problemi col fisco, l'assedio di giornalisti e tifosi che rende la vita impossibile. Criticato e osannato, è mito per molti miti, da Sorrentino a Saviano. Per tutti resta l'unico capace di segnare con la mano dei Dios. Vaya con Valdano Maradona! E dunque, dopo il giornale radio, la storia di Diego Armando Maradona, che ha fatto sognare tutti, anche i non napoletani. Mario, c'hai ancora una bolla rapida di aggiornamento? Due cose al volo. Tre detenuti sono invasi dal Re Bibbia con un lenzuolo, una corda, cioè, più classico dei, hanno approfittato del terremoto, dei metodi. L'altra cosa, leggevo il Papa che dice: Dio piange per calamità, guerre e avidità. Cioè, mette insieme il terremoto, la guerra e Gordon Gekko. E Gordon Gekko, insomma, boh. Sei messo male, Mario? Ma no, vai più no, chiesa. Va benissimo. Cioè, però, insomma, sono tre cose un po' diverse. Metterle tutte insieme. Infatti, Per chiudere, Gloria Guerrera, che ci fa ascoltare oggi? Oggi una canzone per i pessimisti, affamati di cattivi pensieri, ispirati al nostro mondo. Lucio Dalla, Come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare, solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso. Fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene. Poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare.